terzo anello, ad alta voce. L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Narrazione continuata dal dottore. Il quinto viaggio fu alquanto diverso dagli altri. In primo luogo, quel minuscolo guscio di noce in cui ci trovavamo era assai sovraccarico. 5 adulti, e 3 di loro, Triloni, Redruth e il capitano, alti più di 6 piedi, erano già un peso superiore alla sua portata. Aggiungi la polvere, il lardo e i sacchi del pane, l'orlo sfiorava il pelo dell'acqua. Varie volte imbarcammo un po' d'acqua e i miei calzoni e le falde del mio abito furono mezzi fradici prima che avessimo fatto un centinaio di yarde. Il peggio era che stavamo fuori della nostra vera rotta, lungi dal punto d'approdo adatto, dietro la prominenza. Se ci fossimo lasciati trascinare dalla corrente, saremmo approdati in prossimità dei canotti, dove i pirati potevano apparire da un momento all'altro. «Non mi riesce di mantenere la prua sul fortino», dissi io al capitano. Ero io al timone, mentre lui e Redruth, entrambi vogatori freschi, erano ai remi. «La marea continua a trascinarci via. Non potete vogare un poco più forte?» «Impossibile, senza riempir d'acqua l'imbarcazione», rispose. «Dovete tener duro, per piacere, tener duro finché non avremo riguadagnato la posizione!» Mi ci provai e constatai che la marea continuava a buttarci a ovest finché non avessi messo la prua a est, ossia precisamente ad angolo retto con la rotta che dovevamo seguire. «Ma non approderemo mai a questo modo», osservai io. «Se è l'unica rotta che possiamo tenere, dobbiamo mantenerla», replicò il capitano. «Dobbiamo rimontar la corrente. Sentite, signore, se ci lasciamo mettere sotto vento rispetto al punto di approdo, è difficile dire dove toccheremo terra, oltre il rischio di essere aggrediti dagli uomini delle scialuppe. Mentre proseguendo questa rotta, la corrente deve diminuire e allora potremo deviare lungo la costa». «La corrente è già diminuita, signore», disse il marinaio Gray, che era a prua. «E potete allentare un poco». «Grazie, ragazzo mio», risposi come non fosse accaduto nulla, perché tacitamente avevamo deciso di trattarlo come uno di noi. A un tratto il capitano riprese a parlare e mi parve che la sua voce fosse leggermente alterata. «Il cannone», disse. «Ci ho pensato», risposi, «perché ero sicuro che pensasse a un bombardamento del fortino. Ma non potranno mai portare a terra il cannone, e se lo facessero non potrebbero mai trasportarlo attraverso i boschi». «Guardate indietro, dottore», replicò il capitano. Ci eravamo completamente scordati di quel pezzo da 9, ed ecco laggiù al nostro terrore i 5 ribaldi affaccendati a togliergli la giacchetta, come chiamavano la fodera di spesso incerato che lo ricopriva. E non basta, perché nello stesso istante mi balenò alla mente che le palle e la polvere del cannone erano state lasciate a bordo e un colpo d'ascia le avrebbe messe in possesso di quelli scellerati. «Israel era il cannoniere di Flint», fece Gray arrochito. Rischiando ogni cosa, drizzammo la prua del battello verso il punto di approdo. Nel frattempo ci eravamo talmente scostati dal pieno della corrente che riuscivamo a timonare anche con la nostra necessariamente lenta voga, e io riuscii a mantener dritta la prua verso la meta. Ma il peggio fu che con la rotta che adesso tenevo presentavamo il fianco anziché la poppa alla ispagnola e offrivamo un bersaglio largo quanto la porta di un granaio. Io potei udire quanto vedere quel furfante di Israel Hans, con la sua faccia da ubriacone, lasciar cadere pesantemente una palla sul ponte. Thank you. Chi è il miglior tiratore? Chiese il capitano. Il signor Trelawney, senza confronti, dissi io. Signor Trelawney, volete farmi il favore di levarmi di mezzo uno di quegli individui? Hans, se potete, disse il capitano. Trelawney era freddo come l'acciaio. Verificò l'innesco del suo fucile. Però, gridò il capitano, piano con questo fucile, signore, o ci allagherete la barca. E voi, attenti a mantenerla in equilibrio mentre spara. Il cavaliere alzò il fucile. Noi cessammo di remare e passammo dall'altro lato per far da contrappeso e tutto fu così abilmente combinato che non imbarcammo una goccia. Frattanto, quelli avevano fatto girare il cannone sul suo perno e Hans, che stava presso la bocca con lo scovolo, era di conseguenza il più esposto. Però non avemmo fortuna, perché proprio nell'istante in cui Trelawney faceva fuoco, Hans si chinò. La palla gli fischiò sulla testa e fu uno degli altri quattro a cadere. Al grido che mandò fecero eco non soltanto i compagni di bordo, ma un gran numero di voci dalla spiaggia, e guardando in quella direzione vidi gli altri pirati sbucar fuori dagli alberi e precipitarsi ai loro posti sulle scialuppe. «Ecco le lance che arrivano!» dissi. «Filiamo allora!» disse il capitano. «Non conta se imbarchiamo acqua adesso! Se non riusciamo ad approdare, è finita!» «Una sola delle lance è equipaggiata, signore!» aggiunsi. «La ciurma dell'altra sta con ogni probabilità facendo il giro per la spiaggia, per tagliarci fuori!» «Dovranno fare una bella corsa!» rispose il capitano. «Marinaio a terra si sa cosa valga! Non mi preoccupo di loro, io, ma della palla di cannone! Un bombardamento a tappeto! La cameriera di mia moglie non potrebbe mancarci! Avvertiteci, cavaliere, quando vedrete la miccia, e noi faremo da contrappeso!» Frattanto, avevamo avanzato con discreta velocità per un battello così sovraccarico e avevamo imbarcato poca acqua nella manovra. Adesso eravamo vicini, ancora 30 o 40 vogate avremmo preso terra, perché il riflusso aveva già lasciato allo scoperto una stretta striscia di sabbia sotto gli alberi folti. La lancia non era più temibile, la piccola prominenza già l'aveva nascosta ai nostri occhi. Il riflusso che ci aveva così crudelmente trattenuti ora stava compensandoci, trattenendo i nostri assalitori. L'unico pericolo era il cannone. «Quasi, quasi!» disse il capitano. «Azzarderei una fermata per beccarne un altro!» Ma era evidente che intendevano ritardare in alcun modo la loro cannonata. Non avevano nemmeno degnato di uno sguardo il compagno caduto, quantunque non fosse morto, e io potessi vedere i suoi sforzi per trascinarsi via. «Pronti!» gridò il cavaliere. «Prendetevi questa!» gridò il capitano, rapido come un eco. E lui e Redruth fecero da contrappeso con violenza tale che mandò la poppa sott'acqua. La detonazione partì nel medesimo istante. Fu quello il primo colpo avvertito da Jim, non avendo potuto giungergli il colpo di fucile del cavaliere. Dove fosse passato il proiettile nessuno di noi seppe con precisione, ma io suppongo che fosse sulle nostre teste e che lo spostamento d'aria possa aver contribuito al nostro successivo disastro. Comunque, la barchetta sprofondò di poppa, lemme lemme, in 3 piedi d'acqua, lasciando me e il capitano ritti uno in faccia all'altro. Gli altri 3 fecero un bagno completo e tornarono a galla, zuppi, ansimando. Per il momento il danno fu poco. Nessuna vita perduta e si poteva raggiungere la riva a piedi, in piena sicurezza, ma tutte le nostre provviste erano andate a fondo. e per colmo di sventura dei 5 fucili non ne rimanevano utilizzabili che 2. Ad accrescere il nostro smarrimento, udivamo delle voci avvicinarsi sempre più attraverso i boschi lungo la spiaggia e correvamo non soltanto il pericolo di essere tagliati fuori dal fortino nel nostro momento di crisi, ma la paura che Hunter e Joyce, attaccati da una mezza dozzina di uomini, non avessero il coraggio e la capacità di resistere. Hunter era risoluto, lo sapevamo. Joyce era dubbio, simpatico, servizievole come domestico da spazzolar panni, ma non del tutto adatto a fare il guerriero. Con tutti questi pensieri per la testa, raggiungemmo a guado la riva quanto più in fretta ci fu possibile, lasciandoci dietro la povera barchetta e una buona metà delle nostre polveri e provviste. Tutta velocità attraversammo la fascia boscosa che ci separava dal fortino, sentendo a ogni passo le voci dei filibustieri farsi più prossime. Presto potemmo udire il rumore delle loro pedate mentre correvano e gli schianti dei rami spezzati quando si imbattevano in un tratto boscoso. Cominciai a capire che avremmo avuto quanto prima uno scontro e diedi un'occhiata all'innesco del mio moschetto. «Capitano!» dissi. Triloni è un tiratore infallibile. Dategli il vostro fucile. Il suo è inservibile. 40 passi più in là giungemmo al limite del bosco e ci trovammo di fronte alla palizzata. Varcammo il recinto circa a metà del lato sud e quasi contemporaneamente 7 rivoltosi, col nostro uomo Job Anderson alla testa, apparvero urlando all'angolo sud-ovest. Si arrestarono come presi alla sprovvista. E prima che si rimettessero, non soltanto il cavaliere e io, ma Hunter e Joyce, dall'interno del fortino, avemmo tempo di far fuoco. I 4 spari furono esplosi in modo piuttosto disordinato, ma ottennero lo scopo. Uno dei nemici cadde immediatamente e gli altri, senza esitare, fecero dietro front e si tuffarono fra gli alberi. Dopo aver ricaricato, scendemmo verso l'estremo della palizzata per vedere il nemico caduto. Era rimasto stecchito, fulminato al cuore. Cominciavamo a rallegrarci del nostro successo quando nello stesso istante un colpo di pistola rintronò nella boscaglia. Una palla mi fischiò rasente l'orecchio e il povero Redruth vacillò e cadde lungo disteso sul terreno. Tanto io che il cavaliere restituimmo il colpo, ma non avevamo alcun bersaglio ed è probabile che sprecassimo soltanto la polvere. Poi ricaricammo e portammo la nostra attenzione sul povero Tom. Il capitano e Gray stavano già esaminandolo e mi accorsi con un colpo d'occhio che non c'era più nulla da fare. Ritengo che la nostra pronta replica avesse nuovamente messo in fuga gli ammutinati, perché ci fu concesso, senza altra molestia, di prendere il povero guardacaccia, issarlo al di là della palizzata e portarlo sanguinante e gemente dentro il fortino. Povero vecchio compagno, non aveva proferito una parola di sorpresa, di rammarico, di paura e nemmeno di rassegnazione dal principio dei nostri guai fino a quel momento, quando lo deponemmo giù nel fortino per morirci. Si era appostato nel corridoio dietro il suo materasso come un guerriero antico e aveva eseguito ogni comando silenziosamente, devotamente e perfettamente. Era il più anziano dei nostri, di parecchi anni, e ora, burbero, vecchio, utile servitore, toccava a lui di morire. Il cavaliere cadde in ginocchio accanto a lui e gli baciò la mano, piangendo come un fanciullo. «Devo andarmene, dottore», chiese. «Tom, amico mio», dissi, «te ne vai al Signore. Avrei prima desiderato che assaggiassero qualche confetto del mio fucile», replicò lui. «Tom», disse il cavaliere, «dimmi, che mi perdoni, vuoi dirmelo?» «Vi pare che sarebbe rispettoso nei vostri confronti, cavaliere?» fu la sua risposta. «Non di meno, così sia. Amen». Dopo un breve silenzio, disse che riteneva che qualcuno dovesse leggere una preghiera. «È l'uso, signore», disse quasi a scusarsi. E non molto dopo, senza altra parola, spirò. Thank you. Frattanto, il capitano Smollett, che mi ero accorto aveva il petto e le spalle gonfi fuori modo, aveva tirato fuori un mucchio di oggetti disparati: la bandiera britannica, una Bibbia, un rotolo di fune ritorta, penna, calamaio, il libro di bordo e molte libbre di tabacco. Aveva trovato nel recinto un lungo abete abbattuto e con l'aiuto di Hunter l'aveva rizzato su un angolo del fortino dove i tronchi si incrociavano. Poi, arrampicatosi sul tetto, aveva con le sue proprie mani issato la bandiera al vento. Parve che ciò lo riconfortasse immensamente. Rientrò nel fortino e si mise a fare il computo dei viveri come se null'altro esistesse. Ma con la coda dell'occhio teneva dietro all'agonia di Tom e non appena tutto fu finito si avvicinò con un'altra bandiera e la stese devotamente sul cadavere. «Non vi abbattete, signore», disse, stringendo la mano al cavaliere. «Tutto è andato bene per lui. Nulla da temere un marinaio caduto nell'adempimento del proprio dovere verso il suo capitano e il suo armatore. Può non essere buona teologia questa, ma è verità». Poi mi prese in disparte. «Dottor Livesey», disse, «fra quante settimane voi e il cavaliere prevedete che arrivi l'altra nave?» Gli risposi che non era affare di settimane, ma di mesi, che se non fossimo stati di ritorno a fine agosto, Blandley avrebbe dovuto mandare a cercarci, ma né prima né dopo. «Potete fare il computo voi stesso», dissi. «Già, già», replicò il capitano grattandosi la testa. «Ma pur facendo il massimo credito ai poteri della provvidenza, direi che ci troviamo in un bel pasticcio». «Che cosa intendete dire?» chiesi io. «È un grosso guaio, signor mio, aver perduto quel secondo carico, ecco. Che cosa intendo dire?» rispose il capitano. «Quanto a polvere e munizioni ce la possiamo fare. Ma le razioni dei viveri sono scarse, scarsissime, tanto scarse, dottor Livesey, da doverci quasi compiacere di ritrovarci con una bocca di meno da sfamare». E additò il cadavere coperto dalla bandiera. Proprio in quell'istante, con un mucchio e un sibilo, una palla passò alta sopra il tetto del fortino e cadde pesantemente lungi da noi nel bosco. «Oh!» disse il capitano. «Sparate a raffica! Siete già abbastanza a corto di polvere, ragazzi miei!» Al secondo tentativo la mira migliorò e la palla cadde all'interno della palizzata, sollevando una nuvola di sabbia, ma senza produrre altro danno. «Capitano!» disse il cavaliere. «Il fortino è perfettamente nascosto al bastimento. Deve essere la bandiera che prendono di mira. Non sarebbe più prudente metterla dentro?» «Ammainare la mia bandiera?» gridò il capitano. «Mai e poi mai!» E aveva appena pronunziato queste parole che tutti fummo d'accordo con lui, perché non era soltanto quello un tratto di virile, nobile, marinaresco sentimento, era anche atto di buona politica e dimostrava al nemico che disprezzavamo le sue cannonate. Per tutto il pomeriggio seguitarono a bombardare. Poi il capitano si sedette davanti al suo libro di bordo ed ecco l'intestazione delle sue annotazioni: Alexander Smollett, capitano. David Livesey, medico di bordo. Abraham Gray, secondo carpentiere. John Trelawney, armatore. John Hunter e Richard Joyce, servitori dell'armatore al loro primo viaggio. I soli rimasti fedeli dell'equipaggio del bastimento, con viveri per giorni 10 a razioni ridotte, sono sbarcati oggi e hanno issato la bandiera britannica sul fortino dell'Isola del Tesoro. Thomas Redruth, servitore dell'armatore al suo primo viaggio, ucciso dai rivoltosi. Jim Hawkins, mozzo. E in pari tempo io andavo fantasticando sul destino del nostro povero Jim. Un richiamo dalla parte di terra, Qualcuno ci chiama! Disse Hunter, che era di guardia. Dottore! Cavaliere! Capitano! Ehi, Hunter! Siete voi! Dicevan le grida. E corsi alla porta in tempo per vedere Jim Hawkins, sano e salvo, scavalcare la palizzata. Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it